Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ancora una sola settimana di pazienza e poi torniamo in diretta per tutta la stagione con la terza stagione di Voi Siete Qui, un programma in cui noi raccontiamo una storia al giorno, sostanzialmente, quello che facciamo da 3 anni a questa parte. E vi chiedo, se avete voglia di farlo, se non l'avete ancora fatto, se in questa estate vi è successo qualcosa di molto particolare, oppure se questa estate vi ha fatto pensare a qualcosa di molto particolare. Voi siete qui, @radio24.it. Mi raccontate in una pagina una storia che racconti qualcosa di voi. Di qualsiasi cosa, che possa riguardare l'amore, che possa riguardare il lavoro, la scuola, l'infanzia, i vostri genitori, i vostri figli, vostra moglie. L'importante è che sia una storia realmente accaduta a voi e che racconti in parte un pezzo di quello che siete. Ce la inviate, a Voi Siete Qui, @radio24.it, e noi ci facciamo una puntata. Noi cerchiamo di prendere quella storia e, se ce la facciamo, di renderla universale. La puntata con cui cominciamo oggi, dopo questa pausa agostana, è una puntata a cui sono particolarmente affezionato, perché quest'estate è mancata Margherita Hack e pochi mesi prima Margherita Hack era stata parte di questo programma, perché ci aveva raccontato una storia legata alla sua infanzia, legata al fato e soprattutto al concetto di libertà. Nella seconda parte c'è un'altra storia invece che ha sempre a che fare con il fato e in qualche modo con la libertà. Ce la racconta Enrico e parla di quando una volta si faceva il militare e di quando una volta, a proposito del militare, si potevano chiedere delle raccomandazioni. La storia di oggi però sostanzialmente è la storia di Margherita Hack e con questo mi piacerebbe salutarla. E così sono diventata antifascista. La dittatura alla fine si era mostrata per quella che era, e anche una ragazzina come me poteva accorgersene. Ricordo che nel maggio del 40, durante un intervallo, ebbi una discussione in classe con delle compagne fasciste sul perché l'Italia non fosse ancora entrata in guerra. Era maggio del 40, era alla vigilia della maturità e anche alla vigilia della guerra. E mi ricordo che un giorno in classe, durante l'intervallo, venne una discussione, io e compagni fascisti, in cui dichiaravo che era una guerra ingiusta e non aveva senso, e fui portata in presidenza con l'accusa di sobillare contro il fascismo. La Germania aveva invaso l'Olanda e il Belgio. E in nome di questa forzata amicizia, anche noi avremmo dovuto seguire i tedeschi nella loro folle impresa suicida. Davanti a tanta cecità mi scaldai. Dissi alle mie compagne che l'invasione di nazioni così piccole e le leggi razziali altro non erano che una manifestazione della vigliaccheria della Germania. La classica mossa del potente che si sfoga sugli indifesi. Il professore di matematica Mancinelli sentì i nostri discorsi e ci mandò tutti in presidenza. Il preside riunì il consiglio dei professori, perché allora su queste cose non c'era da scherzare. Avrei dovuto essere segnalata come antifascista e pertanto sarei stata espulsa da tutte le scuole del regno. Per fortuna, a differenza di Mancinelli, molti dei professori erano antifascisti e quindi si limitarono a sospendermi per 30 giorni. La scampai bella, ma in ogni caso lo scenario non era dei migliori. In pratica mi ritrovavo alla fine dell'ultimo anno di liceo con un mese di sospensione e un 7 in condotta. Con queste credenziali avrei dovuto presentarmi a ottobre all'esame di maturità, una prova che allora faceva tremare le vene ai polsi. Si portavano tutte le materie del triennio e la promozione non era mica garantita. In poche parole, me la vedevo brutta. A volte però capitano dei paradossali colpi di fortuna, delle particolari coincidenze di fattori che finiscono per salvare miracolosamente una sola persona mentre condannano alla peggiore delle sorti milioni di altre. Il mio fu proprio uno di questi casi. Tornai a scuola alla vigilia della guerra. L'Italia entrò in guerra il 10 giugno del 40 e furono aboliti gli esami di maturità. E questa fu una fortuna per me, perché io avevo avuto sì la sospensione e 7 in condotta, con cui sarei dovuto andare a ottobre in tutte le materie, e quindi l'esame di maturità che era già un esame tremendo, sarebbe diventato ancora più tremendo. Mentre io già avvertivo il terrore per l'esame che avrei dovuto sostenere, il 10 giugno il Duce si affacciava al balcone di Palazzo Venezia per un annuncio che avrebbe fatto tremare il paese. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. L'entrata in guerra scombinò tutti i programmi e spazzò via tutte le piccole preoccupazioni come la mia. Preoccupazioni ben più grandi avrebbero rovinato la vita di tanti ragazzi. I liceali all'ultimo anno furono promossi o bocciati in base ai loro voti dello scrutinio. Io avevo la media del 7. E la sfangai. Che cos'è la libertà? Questa credo sia tra le grandi domande della storia dell'uomo, insieme a da dove veniamo, perché siamo su questa terra, cosa succede dopo la morte o come ci innamoriamo. Bisognerebbe sapere con esattezza che cos'è una costrizione in realtà per poter comprendere il concetto di libertà. Quindi la prigione o i campi di concentramento, un sequestro, questi sono i casi che mi vengono in mente immediatamente quando penso al concetto di privazione della libertà. Credo ancora oggi che il confine tra libertà e costrizione sia sempre molto sottile e mai netto. Una volta da ragazzo successe una cosa che racconta perfettamente questo confine così labile. La storia è questa qua, facevo la quarta liceo. Una mattina alle 10 ci fanno uscire da scuola e ci portano al Teatro Faraggiana di Novara per una sorta di conferenza spettacolo contro l'uso della droga. L'entusiasmo ovviamente era alle stelle, perché saltare a pie pari 3 ore di scuola è un lusso tale che si pagherebbe per ottenerlo. Il teatro è strapieno. La persona che tiene l'incontro è un musicista, per l'esattezza è l'ex batterista dei Simple Minds. Io in quel periodo impazzivo per i Simple Minds, perché per tutta l'estate avevo cantato Let There Be Love, non so se ve la ricordate. Vabbè, lui è lì e ha una batteria sul palco, parla un italiano mezzo inglese, però si capisce. È molto simpatico e spiega che la droga fa male, che la vita di un tossico è orribile e che inizia la mattina senza uno scopo se non quello di cercarsi la roba fino a notte fonda. Ogni tanto si ferma, piglia la batteria e fa degli assoli pazzeschi e siamo tutti contenti. Fino a che arriva il momento delle domande, del pubblico intendo dire. Una ragazzina si alza in piedi e gli chiede come ha fatto ad uscire dalla droga. E lui, un po' imbarazzato, dice: sono uscito grazie a Scientology. Lei allora gli chiede che cosa sia Scientology e prima che lui faccia in tempo anche solo a rispondere al microfono, dal fondo della sala una professoressa di non so quale classe attraversa la platea correndo e quasi urlando, afferra il microfono della ragazza e dice: basta, l'incontro è finito, fuori tutti. A quel punto ovviamente tutto il teatro inizia a urlare, a dire che noi vogliamo sapere, che lei sta limitando la nostra libertà di conoscere e di informarci. Il tutto ovviamente infarcito di quei termini altisonanti che i liceali usano, no? Spesso magari senza conoscere davvero appieno il significato o semplicemente un po' buttandoli lì. Di quell'episodio e del concetto di libertà se ne parlò parecchio in classe nei giorni successivi. Per cui ci si domandava che cos'era la libertà, era proteggerci da qualcosa che secondo quella professoressa era nocivo oppure era metterci nelle condizioni di scegliere. Cioè la libertà è stare al riparo per poter continuare la propria battaglia oppure uscire e mettersi al vento. Qualsiasi corso di primo soccorso insegna ai soccorritori di mettersi sempre nelle condizioni di poter mollare tutto, compresa la persona da soccorrere, se le condizioni mettono in pericolo il soccorritore. Forse allora è poter mollare tutto, forse, è libertà, non lo so. La storia vissuta da Margherita Hack al liceo è un modo molto chiaro per spiegare questo concetto e sembra essere solo il primo dei capitoli della sua vita che parlano della sua ferrea idea di libertà. Bye. Che cos'è la libertà? Questa è una domanda, è forse la domanda delle domande, nel senso che il termine libertà viene utilizzato a volte in maniera appropriata, a volte probabilmente meno, da un sacco di persone tutti i giorni, e viene sottoposto ogni giorno alla nostra attenzione. La libertà, che cos'è la libertà? La storia di Margherita Hack, tutta la storia di Margherita Hack, è in particolar modo questo piccolo episodio legato alla sua gioventù, quando si ribellò a un concetto, a dei compagni che, insomma, che in quell'epoca la vedevano in un modo diverso dalla sua, rappresentano in qualche modo tutta la sua vita e quello che probabilmente per lei significa libertà. Signor Hack, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Grazie per essere qui, innanzitutto. Prego. Libertà significa essere liberi di pensare quello che vogliamo e di non imporre le proprie credenze agli altri. La mia libertà finisce dove comincia quella degli altri, quindi non è che per la mia libertà devo opprimere gli altri. Però devo essere libera di agire per quello che non disturba gli altri, come mi sento di agire e di pensare. Quindi, insomma, nei termini della legalità, giusto? Nel momento in cui io non faccio male a nessun altro, devo essere libero di poter fare e dire quello che penso. Le leggi ci sono apposta, in fondo, per regolare i rapporti fra gli esseri umani, o dovrebbero esserci. Lei non ha la sensazione, signor Hack, che oggi spesso quando uno cerca di fare valere la propria libertà fa quasi notizia? Lo dico perché lei qualche tempo fa ha fatto notizia tra le varie volte che è capitato, semplicemente perché ha deciso di sviluppare, di mantenere la propria libertà decidendo di non sottoporsi a un'operazione cardiaca, giusto? Mi corregga se mi sbaglio. Sì, è vero, ma insomma... Non è che ho fatto notizia, per fortuna in generale uno è libero di scegliere, sono casi estremi quelli dell'accanimento terapeutico, non era il caso mio. Visto che lei ha vissuto quegli anni e lo racconta anche in questo episodio in cui la libertà mancava chiaramente perché si parlava di fascismo, di una dittatura vera e propria. Dittature, la libertà manca nel senso che non puoi esprimere liberamente il tuo pensiero e anche votare e scegliere il governo che pensi sia più utile, e quindi la dittatura limita enormemente le libertà politiche, sociali dei cittadini. Ecco, visto che lei appunto ha conosciuto quel periodo, lei, ripensando agli ultimi anni di democrazia e di Repubblica Italiana, si ricorda dei momenti in cui si è stati vicini a una mancanza di libertà, oppure non è vero tutto quello che si dice che mancava una forma di libertà di stampa o di pensiero? Alcuni lo dicevano. Il fascismo certamente c'era, e qui no, diremmo di no, anche se ci sono tentativi del Vaticano di imporre le proprie credenze, le proprie leggi. Quando per esempio si fa una legge come la legge 40, sotto la spinta del Vaticano, che proibisce la ricerca sulle cellule staminali perché l'embrione avrebbero l'anima, quella è una limitazione di libertà che dipende dalla debolezza di un governo laico a opporsi ai dettami del Vaticano. E così il non fare una legge che equivalga, che dia gli stessi diritti ai membri delle coppie di fatto di quello che hanno le coppie ufficiali, manca una legge proprio sotto lo stimolo del Vaticano. Ma questa non la chiamerai dittatura, la chiamerai debolezza di un governo laico. A proposito di mancanza di libertà, io ricordo che lei, e nel suo libro anche viene raccontato, ha sempre guidato la sua Fiat Panda in giro per le strade di Firenze o di Trieste, e mi ricordo che lei se la prese molto quando le tolsero la patente o non gliela rinnovarono. No, me l'hanno tolta, semplicemente mi scadeva, dovevo fare la revisione. Io chiesi a un medico della lista abilitata di visitarmi, e quello mi disse che non visitava pazienti più anziani di 85 anni. Ah, giusto. E quello mi disse era incostituzionale. E ora me l'hanno rinnovata, ma non c'era solo lui di medici. Era però una questione di principio. Certo. Invece, scusi... Io avevo una tipo, non... ora c'ho la palla. Ah, prima aveva una tipo? Sì. Una macchina che quasi non ricordavo neanche più ci fosse la tipo. Ha sostituito la ritmo, credo, la tipo. Nella... Ma la tipo, mi ricordo se... Era più grossa, era un 1500. Senta, signor Hack, mi racconta brevemente come ha deciso di diventare scienziato, come ha deciso di studiare... Non ho deciso, è stato un po' il caso, perché quando io ho fatto il liceo, poi mi sono iscritta all'università e la materia mi piaceva di più era la fisica, quindi dopo qualche incertezza mi sono iscritta a fisica e facendo la tesi mi è capitato di fare una tesi in astrofisica e ho capito, era un bel lavoro, ho capito cosa voleva dire fare ricerca e quindi ho pensato che quello poteva essere il mio lavoro, perché veramente prima non lo sapevo, pensavo sarei andata a insegnare alle scuole medie. E invece poi è finita a dirigere osservatori. Dopo ho fatto l'era universitaria. Certo, certo. Invece, cambiando discorso, secondo lei, anche per chi all'ascolto, proprio perché prima no, cercavo di dire che il termine libertà è sovrautilizzato e spesso a sproposito, secondo lei, nella vita di tutti i giorni, di ognuno di noi, qual è il modo più semplice per perseguire la libertà? Ma di agire secondo i propri desideri, le proprie inclinazioni, entro il limite del possibile. Di esprimere le proprie idee in una discussione senza paura di ipocrisia. Signora, come stanno i suoi gatti, i suoi animali? Stanno bene, loro sono liberi, veramente. Io la ringrazio moltissimo per il pezzo di storia che ci ha regalato e per la chiacchiera. Grazie. Erano i primi anni Ottanta. Terminata la scuola superiore, aspettavo con ansia la chiamata alle armi. I miei amici di scuola erano partiti, io in qualche modo riuscii a tardare la chiamata di un anno. Finché, un bel giorno, la cartolina arrivò. Destinazione era Taranto, Marina Militare. Ho fatto il nautico, quindi sognavo magari di navigare, però dopo ho preso un'altra strada e ho terminato il militare, ho fatto il vongolaro, ho una barca, pesco le vongole, sono soddisfatto del lavoro e niente. Appena arrivato fui spedito a fare le visite mediche e venni dichiarato idoneo. Essendo diplomato all'istituto nautico, mi affidarono la specializzazione di radarista. Il corso durava 2 mesi ed era a Taranto. Partii salutando amici e familiari come se stessi partendo per sempre. Quei 2 mesi furono interminabili. Mi sembrava di essere arrivato ragazzino e di essermi trasformato in un anziano. Nel frattempo mi misi a lavorare per il mio avvicinamento a casa nei mesi successivi. Tempestavo di telefonate mio padre affinché facesse di tutto, una volta finito il corso, per farmi avvicinare a casa. Tutti lo facevano e io non ero da meno. Aggrapparsi a qualsiasi appiglio, chiedere ad amici e parenti, trovare un maresciallo, un appuntato, chiunque potesse aiutarmi ad avvicinarmi a casa. La probabilità di tornare ad Ancona erano nulle. Al massimo pareva Venezia, o forse proprio Taranto, o peggio La Spezia. Finalmente arrivò il giorno dell'esito degli esami e di conseguenza la rivelazione della mia destinazione. Tremante mi avvicinai alla bacheca e con mio enorme stupore lessi Dragamine Sandalo, Messina, Sicilia. Solo al pensiero di stare un anno e mezzo lontano da casa mi dava un senso di sconforto che mi tramortiva. Ce l'avevo con tutti, ma soprattutto con mio padre, che non era riuscito ad accontentarmi, che non aveva trovato il gancio giusto per avere un aiuto. Quella sera stessa, per evitare di rimanere da solo in caserma, andai a mangiare una pizza con degli altri amici. All'improvviso mi venne in mente un amico dei tempi della scuola, partito un anno prima e anche lui diventato radarista. Mi ricordavo che come me era imbarcato su un dragamine, però ad Ancona, vicino a casa. Così decisi di telefonargli per avere più informazioni sul dragamine, il sandalo. Lo chiamai a casa e mi rispose sua mamma. Mi presentai. Appena feci il mio nome, non feci neanche in tempo a dire altro, perché dall'altra parte della cornetta sentii una serie di imprecazioni nei miei confronti che mi lasciarono stupito. E così riagganciai. Mi chiesi perché lei mi avesse preso male parole, ma poi andai a dormire e non ci pensai più. Quando ho visto la destinazione è nato un po' svenivo, perché c'avevo un altro sogno, cioè quello di far militare vicino casa, massimo sarebbe stato Ancona. Ho telefonato subito a casa chiedendo spiegazioni a mio padre e mio padre mi ha detto che ha fatto di tutto. Quando il giorno dopo mi diedero le informazioni per la partenza, capii che cosa era accaduto. Il dragamine Sandalo, quello a cui io ero destinato, in realtà era di base ad Ancona e si trovava a Messina solo temporaneamente per lavori alla carena. Io, quindi, presi il posto proprio di quel mio caro amico che era imbarcato su quel dragamine ad Ancona e per causa mia lui venne trasferito a Venezia. Ecco spiegati gli insulti della madre al telefono. Ma la storia non finisce qui, perché scoprii anche che la sua ragazza era incinta e avrebbe partorito a mesi con lui lontano centinaia di chilometri. Quell'amico da quel giorno non lo vidi e non lo sentii più, e forse è meglio così. Non avrei mai avuto il coraggio di guardarlo in faccia e chiedergli perdono. Of this Napoleon raccomandazioni fanno male? Questa è la domanda che mi è saltata in testa appena ho finito di leggere la storia di Enrico. Dunque, in assoluto si potrebbe dire che le raccomandazioni fanno bene a chi le riceve e male a tutto il resto del mondo. Parlare delle raccomandazioni eticamente è semplicissimo, cioè tutti sono contrari, però nessuno le rifiuta. O almeno se qualcuno lo fa, è difficile averne la notizia. Le raccomandazioni non possono essere annoverate nel colpo di fortuna, che pur serve per avere successo nella vita e nel lavoro, perché se qualcuno parla di te e ti consiglia per un lavoro per il quale tu non sei preparato o non lo sei come altri che lo potrebbero prendere al posto tuo, quella non è buona sorte. Leggendo la storia di Enrico, però, mi è venuta in testa un'idea piuttosto bizzarra, e cioè che le raccomandazioni in realtà facciano male anche a chi le riceve. Allora, facciamo così. Immaginiamoci una situazione tipo da raccomandazione italiana. Ragionando proprio per linee generali e generaliste, Per cui, un giovane, diplomato, disoccupato, che ha fatto qualche lavoro saltuario, cerca lavoro. Non ha una formazione specifica, non ha fatto esperienze significative, non ha vissuto all'estero. Suo zio ha una posizione di rilievo nel mondo della politica o dell'industria, mettiamo, locale. La sorella dello zio, quindi la mamma, gli parla spesso di suo figlio, cioè del nipote disoccupato che passa le giornate tra la TV e il bar sotto casa. E così lo zio un bel giorno alza il telefono e chiama un suo amico che gli deve un favore. E dopo una settimana il nipote è assunto in azienda. Un'azienda che produce qualcosa che nemmeno sappiamo cos'è, ma che in realtà non è importante conoscere. Il nipote è molto grato allo zio, ovviamente, e inizialmente cerca di darsi da fare in azienda. È giovane, ha energia e dà il meglio di sé. Ben presto però si accorge che non serve, che comunque lui da lì non si muoverà e che quindi tanto vale occupare il tempo in attesa di uscire e farsi la sua vita fuori da lì. Passano gli anni, il nipote invecchia, si sposa, fa due figli. Intanto lo zio muore, ma lui ormai il suo lavoro ce l'ha garantito, ce l'ha sicuro, E così, senza nemmeno accorgersi, gli anni passano su di lui. Ecco, so che stiamo ragionando per assurdo, eh? Però non è assurdo che una cosa così possa accadere. Tutti siamo contrari, ovviamente, a tutti fa schifo, e probabilmente è uno dei motivi per cui questo paese è dov'è, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo portati a biasimare quel nipote e a pensare che ha rubato il posto. Posto che poteva essere preso da qualcuno qualificato e che avrebbe fatto meglio all'azienda e in ultimo avrebbe fatto meglio al mondo intero e lo avrebbe reso un luogo migliore. Eppure io credo che quella raccomandazione lì non abbia fatto bene nemmeno a quel nipote. Gli ha come impedito di lottare, di cercare un senso ai suoi giorni e soprattutto di scoprire cosa gli piaceva e per cosa era tagliato. Quella raccomandazione arrivata in maniera gratuita gli ha fatto pagare un prezzo altissimo, cioè quello di passare il resto della sua vita nella convinzione che un'altra possibilità per lui non ci sarebbe stata. Che era giusto prendere al volo quel posto regalato, anche se non sapeva cosa fosse, anche se non era capace, anche se non gli piaceva. Essere raccomandati anche quando pensi che quella sia la tua strada e ti serve solo una mano per iniziarla, è un errore che ti inchioda alla convinzione di essere solo quella cosa lì e nient'altro. Di essere in grado di fare solo quello o di non essere nemmeno capace di farlo e quindi è meglio riceverlo in dono. Ecco perché penso che le raccomandazioni facciano male, perché riducono la libertà di chi le subisce e la capacità di immaginarsi di chi le riceve.